Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per presentare il film Una storia d'amore e di desiderio di Leila Bouzid al cinema da venerdì 25 marzo 2022. Ben trovato! Ben trovato Federico e ben trovati tutti gli ascoltatori. Lo raccontiamo? È la storia di Farah e Ahmed, due studenti della Sorbona di Parigi. Chi ha visto il primo film di Leila Bouzid che abbiamo distribuito, cioè Appena apro gli occhi, si ricorderà che la protagonista si chiamava pure Farah. Qui la coincidenza è solo il nome, ma anche la libertà e l'intraprendenza di questa ragazza che in questo caso non vive in Tunisia, ma viene in Francia dalla Tunisia proprio per studiare e incontra all'università Ahmed, un giovane algerino, in realtà francese, figlio di algerini, quindi francese ma di seconda generazione di emigranti. E questo incontro avviene proprio durante le prime lezioni di un corso sulla letteratura araba erotica. Il medioevo della letteratura araba è stato splendido, con una letteratura di tipo erotico ma di grande livello poetico. E questo è diventato oggetto di tanti corsi di studio nelle università, anche in Italia, e in questo caso fa da contesto e contorno del film il corso alla Sorbona. Ma questo incontro suscita la curiosità di Farah nei confronti di Ahmed, ma soprattutto di Ahmed nei confronti di Farah. Ahmed è un ragazzo timido, è più conservatore di tutti, è molto timido e vive in una famiglia abbastanza tradizionale con la madre e il padre e una sorella. Il padre è abbastanza depresso, lo vediamo di tanto in tanto, ma poi vedremo che il rapporto tra padre e figlio è molto bello, molto intenso, e ci svelerà il motivo anche dell'emigrazione del padre a suo tempo, insomma, la natura del padre, la sua cultura. Ma Farah, che vuole scoprire Parigi, è molto intraprendente e molto libera, quindi spiazza Ahmed. Ma Ahmed comunque ha un'attrazione per lei, anche perché questa novità, questa vivacità di questa ragazza è comunque di per sé attraente. Però trova il corso sulla letteratura erotica un po' troppo osè per il suo pensiero. Lui vive nella banlieue, ma allo stesso tempo è abbastanza isolato, è molto timido, è attratto da Farah, ma è anche respinto dalla sua libertà, in qualche modo dalla sua intraprendenza. Per cui è la storia di questa attrazione, ma frenata da se stesso. Infatti i due personaggi sono coprotagonisti, ma probabilmente l'antagonista classico Ahmed ce l'ha dentro di sé. E quindi tutta questa storia, la scoperta di che cos'è la poesia erotica, ma anche che cos'è il desiderio che può nascere dentro un essere umano e qual è la forza bellissima del sentimento che può nascere nei confronti di un altro essere umano, ma che è alimentata dalla conoscenza dell'altro e non solo dall'esteriorità dell'altro. E tutto questo viene vissuto in una storia di rapporto, di avvicinamento e allontanamento molto coinvolgente, interessante dal punto di vista proprio anche del rapporto con noi stessi, del confronto con le nostre esperienze di relazioni con gli altri esseri umani, soprattutto se hanno un fondamento sentimentale, se c'è un'attrazione. Ecco, questo è il desiderio, e naturalmente l'amore è coltivato dal desiderio, ma sta un po' più in alto rispetto al desiderio. Quindi vediamo questi due ragazzi cercare l'amore, desiderare l'amore, ma per raggiungerlo devono fare molti passaggi nel rapporto e nella conoscenza tra di loro, naturalmente vivendo in un contesto che anche mostra le disuguaglianze della società di oggi, perché l'università e le banlieue, la Sorbona e le banlieue mostrano plasticamente le disuguaglianze della società di oggi. Sì, siamo a Parigi, però potrebbe essere in qualsiasi altra città europea. E infatti Ahmed, nella sua timidezza sessuale, nel suo timore del desiderio e della sua attrazione per Farah, però anche si sente inadeguato all'università che frequenta, e quindi a un certo punto dice: ma forse questa non è un'università adeguata a me. Quindi sente il peso di una classe sociale, quasi sente il dovere di essere portatore lui stesso della disuguaglianza, cioè anziché riconoscersi come vittima della disuguaglianza, in un certo senso si sente quasi in dovere di renderla stabile. E invece Farah ovviamente lavora con la sua libertà proprio per essere contro le disuguaglianze, per costruire i ponti e riportare chiunque a livello dell'altezza, della bellezza, dell'arte e della poesia, e perché no anche del desiderio e dell'erotismo. E direi che una storia d'amore, la scoperta dell'amore nel senso più profondo, più bello del termine, attraverso questa storia di due ragazzi che vivono in Europa ma che allo stesso tempo hanno un'altra identità che con l'Europa ha sempre avuto a che fare, cioè quella mediterranea, è quello che forse oggi ci vuole, perché almeno io appartengo alla generazione che gridava per strada: fate l'amore, non fate la guerra. Ecco, credo che però adesso sia fortemente d'attualità, e quindi in questo senso questa trama è fortemente coinvolgente anche in questo senso, perché ispira questi sentimenti che credo siano importantissimi nella vita di ciascuno di noi, perché poi il cinema è arte. E quindi la cultura è qualcosa di ancora più ampio, ma già il cinema è arte, e l'arte non può che coinvolgerci nei sentimenti ma anche nella carne, perché poi questo film è fatto anche di carne, e cioè di ciò che nella carne c'è anche di bello e di poetico, e questo è molto importante secondo me. In parte Paolo già ce lo hai detto, però che altro sappiamo di Leila Bouzid? È stata scoperta proprio in Italia con un cortometraggio al Festival Cinoafricano di Milano, oggi si chiama Cinoafricano d'Asia e d'America Latina, come giovane tunisina che viveva in Francia, e poi è stata lanciata dalla Mostra del Cinema di Venezia Giornata degli Autori col primo lungometraggio Appena apro gli occhi, che nel 2015 l'ha rivelata al mondo, è arrivata alla finale del premio Lux del Parlamento Europeo, e l'abbiamo distribuita come cineclub internazionale. È stato un gran successo. Lei è figlia tra l'altro di Nuri Bouzid, che è un padre laico della rivoluzione tunisina, è regista anche lui, molto famoso, è stato in concorso a Cannes eccetera, e Nuri è anche molto laico, quindi ha difeso la Tunisia dalla dittatura di Ben Ali ma anche dall'estremismo islamico, e quindi ha anche subito un attentato per questo, per cui è figlia d'arte anche nel senso della resistenza politica. Poi lei ci mette anche un po' di resistenza femminile, perché c'è anche un sentimento giustamente femminista nei suoi personaggi, nello spirito dei suoi film. E quindi poi approda dopo qualche anno a questo secondo lungometraggio, Una storia d'amore e di desiderio, che appunto ci racconta la storia di questi due ragazzi, ma anche la grande letteratura araba medievale, tra cui anche queste opere erotiche, Majnun e Leila, Il giardino profumato, eccetera. E lei con questo film ha chiuso la settimana della critica di Cannes, come film di chiusura. Sapete che i film di gala sono i film d'apertura e i film di chiusura. Ecco, il film di chiusura del Festival di Cannes è stato un grande successo lì a Cannes. Meno di due mesi dopo è uscito in Francia, dove è andato molto molto bene, davvero critiche entusiastiche da parte di tutti i giornali francesi, e devo dire che già in Italia tutto ciò che è stato scritto finora è stato molto molto bello nei confronti del film. Tra l'altro il film poi in Italia ha debuttato al Met Film Festival, dove ha vinto 3 premi, e c'erano giurati come Leonardo Di Costanzo, Ippolita Di Maio, Melania Mazzucco, Gaia Furrer, quindi insomma alcune delle menti migliori della cultura italiana che hanno riconosciuto, hanno dato 3 premi, anche il premio degli studenti internazionali più culture, quindi ha avuto il premio Pedicini per la migliore opera prima o seconda, il gran premio della giuria e anche il premio più culture, quindi devo dire riconoscimenti importantissimi. Quindi si presenta con i migliori auspici, e Leila Bouzid è veramente una giovane promessa del cinema francese ma anche nordafricano, perché lei è francese formalmente ma di fatto ha anche una cultura magrebina, tunisina a tutti gli effetti. Che uscita sarà, Paolo? l'importanza del film, anche la forza artistica, emotiva, commovente del film, stanno aiutando il film ad avere molti piazzamenti. Devo dire finalmente, perché è chiaro che da piccoli distributori non si è abituati a uscite proprio molto molto ampie. Quindi sono contento, credo che riusciremo ad arrivare nelle prime due settimane tra 30 e 40 sale, e questo è molto molto importante, perché è giusto che questo film venga visto da nord a sud, ed è anche aiutato da un giro che in questa settimana tra anteprima e primo weekend faremo per le sale italiane, perché poi una caratteristica del cinema internazionale è proprio quella di portare gli autori a confrontarsi con il pubblico, perché le critiche sono bellissime, fanno veramente piacere perché sono fatte da intellettuali, da persone competenti, però il rapporto col pubblico è caratteristica essenziale del cinema, e quindi noi lo vogliamo incoraggiare proprio aiutando il pubblico il più possibile di tutte le parti d'Italia a incontrare gli autori, in questo caso Leila Buzid. L'incontro di Leila Buzid è veramente entusiasmante, quindi in tutte le tappe dove saremo, informatevi sul nostro sito www.cineclubinternazionale.eu, sulla pagina Facebook eccetera, perché troverete tutte le indicazioni. Il film è una storia d'amore e di desiderio di Leila Buzid, al cinema da venerdì 25 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione. Alla prossima! Alla prossima, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Con l'ulti decrescenzo di Euro Pictures, che distribuisce il film Parigi, Tresme Arrondissement di Jacques Audiard, al cinema da giovedì 24 marzo 2022. Ben trovata! Ben trovato Federico, come va? Tutto bene, tutto bene. Ho visto il film, mi interessava parlarne con te. Ti è piaciuto? Sì, lo descriviamo? È molto difficile descrivere quel film, perché quel film in realtà parla di una vita normale ma in maniera straordinaria, parla di questi ragazzi nella Parigi appunto del tredicesimo tretto, les Olympiades, un ragazzo di colore, una ragazza asiatica, una ragazza francese, che sono amici, a volte amanti, a volte si perdono. In realtà racconta queste storie un po' tormentate dell'amore un po' moderno, un po' fluido, scritto insieme alla Céline Chammat, e questo mix è risultato veramente molto vincente, perché è piaciuto proprio a molti per la modernità con cui Audiard ha raccontato questi giovani. Con una bella fotografia in bianco e nero. Sì, veramente, e che non stanca mai, e soprattutto poi l'omaggio suo al cinema francese di riferimento. Lui voleva, come ha dichiarato poi in alcune interviste, che proprio il bianco e nero poi lasciasse spiazzo invece alle immagini, che poi, come hai visto, sono anche abbastanza focose in alcuni punti, sempre con eleganza, ecco. Mm-hmm. Ed è un relazionarsi nella e della Parigi multietnica. Sicuramente, però io credo anche, non so se sei d'accordo anche tu, che comunque al di là di Parigi comunque è una storia universale che racconta comunque questi rapporti tormentati a livello amoroso dei giovani oggi. E in ogni caso, come tu anche sai, questo è un film che comunque lui ha tratto anche da una graphic novel, quella di Tomin, per cui insomma alcuni tratti sono anche abbastanza esagerati. Cosa ti ha convinto del film? Io avevo letto la sceneggiatura e l'ho preso direttamente sulla sceneggiatura, mi è subito piaciuta appunto questa storia, e l'ho visto la prima volta a Cannes, per cui con Jacques in sala, e sono rimasta impressionata per la bellezza di questo bianco e nero, una colonna sonora fantastica, un film che non stanca mai e che emoziona. In quante sale sarà? Usciremo in una nottantina di copie, e chiaramente le sale, quelle di città, dove c'è il pubblico di riferimento per il cinema di qualità, Federico, e non abbiamo fatto la scelta dei multisala perché insomma non crediamo sia poi la giusta collocazione per il film. Per il pubblico italiano come lo ricordiamo Audiard? Chiaramente lo ricordiamo per Il Profeta, per Dupin, ma qualcuno mi dice anche per Sapore di Ruggine d'Ossa, che è un film straordinario che non viene mai citato, ma io penso sia uno dei suoi più bei film. Ed è incredibile come un regista che adesso ha 70 anni riesce a raccontare così giovani come neanche un giovane può fare. Probabilmente sì, è stato sulle mie labbra che lo ha fatto conoscere al grande pubblico qui nel nostro paese. Certo, certo. Il film Parigi, Tres Mai Arrondissement di Jacques. Che pronuncia perfetta c'hai, cioè, francese, perché molti, molti per molti era difficile, soprattutto Arrondissement. Insomma, c'è stato un po' di confusione, però preferivo tenere appunto questo titolo che connotava quel distretto, quel quartiere Parigi. Insomma, non ho voluto cambiare il titolo. Al cinema da giovedì 24 marzo 2022 con Euro Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Lucy De Crescento. A presto. Grazie a te Federico, grazie a tutti gli spettatori e mi raccomando, andiamo in sala. Con Ciro Formisano, regista del documentario L'altro buio in sala, al cinema da venerdì 25 marzo 2022. Ben trovato! Buongiorno a tutti. Che racconto è? Si tratta di un film documentario in cui viene raccontato un aspetto un po' poco esplorato del cinema, ovvero quello dei gestori delle sale cinematografiche. Ci sono dietro delle storie incredibili che io paragonerei ad una storia del cinema parallela a quella ufficiale. Per antonomasia, insomma, i gestori delle sale cinematografiche sono gli unici della filiera cinematografica che non hanno mai fatto red carpet e che vivono un pochettino all'ombra dei riflettori, appunto, e del glamour che si scatena quando si parla di cinema, insomma. Com'era nato il progetto? Durante pieno lockdown, quindi eravamo chiusi ed io, approfittando diciamo di questo momento in cui le sale cinematografiche erano chiuse, ho pensato a questo progetto. Poi però le sale hanno riaperto dopo la fine del primo lockdown per poi richiudere successivamente ad ottobre. Allora lì mi sono deciso, ho fatto un pochettino la stila delle sale cinematografiche più antiche d'Italia, che poi si sono rivelate essere tutte sale di cinema di sé. Lì ho contattato i gestori, alcuni hanno anche rifiutato, insomma, perché non era un bel momento, e altri invece hanno partecipato di buon grado, e quindi ho fatto questo giro rocambolesco d'Italia per andare appunto ad intervistare i gestori nelle loro sale e quindi sentire un pochettino la storia di queste sale, storie veramente incredibili. Ecco, la cosa che mi ha stupito di più è conoscere una varietà così ampia delle storie raccontate dai gestori delle sale, legate al cinema, legate ai film, legate ai personaggi che hanno anche abitato quelle sale. Veramente sono rimasto a bocca aperta, ecco, sul materiale che sono riuscito a raccogliere e il sacrificio che poi ho dovuto fare per dover contenere tutto questo materiale in un unico film da 95 minuti. Ecco, ho dovuto sacrificare veramente materiale prezioso e divertente. Com'è stata la scelta delle sale dei gestori? Alcune io le conoscevo già perché erano le sale che avevano proiettato il mio primo film, L'Esodo, e con i quali avevo instaurato anche un buon rapporto di amicizia, perché così come sto per fare con questo film, al tempo ho fatto con il mio primo film, cioè lo accompagnavo un po' in giro per l'Italia per le proiezioni e quindi conoscevo queste persone molto carine che appunto ospitavano il mio film. Altre sono delle persone che ho conosciuto adesso per questo progetto, e sono tutti gestori di sale storiche, cioè, ma quando parliamo di sale storiche parliamo veramente del 1915, ecco, cioè le primissime sale cinematografiche che hanno aperto in Italia, non con gli stessi gestori, naturalmente alcuni sono figli o comunque pronipoti o nipoti dei gestori che le hanno fondate, altri invece sono gestori nuovi che però, conoscendo la storia, me l'hanno raccontata. Che idea ti sei fatta ascoltando tutte queste storie? Che comunque i gestori vivono il cinema esattamente come lo viviamo noi registi o scrittori o sceneggiatori. Il cinema è qualcosa che può essere veramente, ora non voglio usare termini, però può essere considerato un vero e proprio virus, a detta loro, cioè nel senso, io uso parole che hanno utilizzato loro, è un qualcosa dal quale non riesci più ad uscire, ed è per questo che comunque il cinema è riuscito a superare delle crisi anche peggiori di quella del Covid, nel senso, quella del Covid è stata una chiusura limitata nel tempo, adesso purtroppo la condizione non è delle migliori, però il cinema ha veramente superato delle crisi molto più gravi di queste. Se solo pensiamo al periodo del cinema a luci rosse, quando praticamente tutte le sale italiane sono state tramutate appunto in cinema porno, e adesso però analizzando quel periodo ci rendiamo conto che ha avuto la sua importanza il cinema a luci rosse, perché senza quel passaggio i cinema non esisterebbero più. Avrebbero chiuso e basta quando sono venute fuori le TV e successivamente le videocassette. Che forma distributiva avrà? È la distribuzione del mio stesso produttore, che è la TVM di Luca Rossi. Io accompagnerò le proiezioni, almeno la prima proiezione, in cui farò un incontro con il pubblico. È una cosa che mi fa sempre molto piacere, ecco, anche il pubblico è molto allettato, ecco, di andare ad una proiezione dove ci sia il regista o comunque qualcuno che ha fatto parte della costruzione del progetto, perché poi in Italia, insomma, il cinema resta una realtà molto artigianale, ecco, quindi conoscere veramente il regista o lo sceneggiatore, il produttore, è un po' come conoscere lo scultore o il pittore, insomma, che ha creato la sua opera. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? La pagina Facebook, che è Faro Cinema Produzioni, e poi su Instagram. Chi vuol seguire me, io aggiornerò giorno per giorno. Ciro Formisano, regista, il mio account IG, dove pubblicherò insomma tutte le proiezioni che saranno fatte dal 25 marzo in avanti. Il documentario L'altro buio in sala al cinema da venerdì 25 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Ciro Formisano. Grazie a voi. A presto. Salve. Con Federica Di Giacomo per presentare il suo film documentario Il Palazzo al cinema da mercoledì 16 marzo 2022. Ben trovata! Ciao a tutti! Ce ne parli? È un film documentario in cui il cinema abbraccia la vita e la vita rincorre il cinema. In un certo senso è un film che è nato circa 10 anni fa nella mia mente, per descrivere, un po' per raccontare la storia assurda di questo palazzo al centro di Roma, proprio davanti al Vaticano, dove 20 anni fa si costruiva questo grande film, il cui regista era questo ragazzo uscito da filosofia con tutti i suoi amici, che diventavano poi gli attori del suo film, e che stazionavano occupando in varia misura i piani alti di questo palazzo, di una persona, Rocco, che l'ha ereditato e che non voleva solo trasformarlo in una fonte di reddito, ma anche che fosse uno spazio di condivisione artistica. E in realtà appunto questo palazzo lo è diventato per molti anni, con però questo sottile filo inquietante che legava un po' le persone che stavano lì dentro, di un mancato confronto con l'esterno, diciamo, non si usciva mai, chi c'è entrato ne è uscito con molta difficoltà, addirittura Mauro, il mio amico che dirigeva questo film, non è più riuscito a uscire più o meno per 15 anni, ecco. Com'è nata l'idea di realizzarlo? Beh, l'idea mi è venuta proprio perché era un racconto su delle cose che si facevano senza avere mai un ritorno esterno, e quindi senza la necessità di dover avere un prodotto, di dover diventare qualcosa di integrato nel sistema. E in realtà questo è diventato un principio che poi ha dominato il palazzo. Per esempio, per molto tempo non si poteva parlare di lavoro nel palazzo perché ti guardavano malissimo, era quasi un insulto. In realtà poi questa non portare fuori le cose è diventata anche poi un'implosione, una certa energia che a un certo punto ha dato un esito quasi tragico. E noi volevamo iniziare il film molti anni fa, poi in realtà l'occasione è arrivata 3 anni fa e poco dopo il protagonista è mancato, e quindi il film ha cambiato completamente tono ed è diventato un racconto corale di qualcosa che è finito a un certo punto, di questa fine dei giochi adolescenziali, questo confronto abbastanza duro ma sempre tragicomico con la realtà, di tutti i suoi amici che si vedono lasciare tutto questo archivio di immagine enorme in cui loro recitavano da giovani. Su quali aspetti hai voluto centrare l'attenzione? L'idea era un po' di giocare con l'archivio e creando, diciamo, una specie di sguardi quasi in un sistema democratico, cioè il mio amico che è scomparso e che mi ha lasciato tutto questo materiale continua a guardarli attraverso queste immagini che lui ha girato quando loro erano giovani, erano belli, erano simpatici, volevano fare cinema, e ora loro guardano le immagini e in un certo senso diventa un dispositivo emotivo per capire che scelte si sono fatte e anche in fondo se tutta questa storia di finire le cose, di concludere le cose è vera o è forse la società che ce la impone, perché alla fine forse è meglio vivere come si vuole senza dover rispondere a nessuno, è meglio doversi confrontare. L'opera d'arte è arte anche quando non viene edita o è arte solo quando viene comunicata? Insomma, c'erano tutta una serie di domande che poi vivono attraverso la pelle e questo disagio un po' strisciante della nostra generazione, quindi è un film in fondo di emozioni, non è un film in cui succede chissà che cosa, è più una specie di ballata all'interno di un anno di rielaborazione del lutto di tutti questi amici che si sono ritrovati per la morte del loro amico più storico. Che forma distributiva hai scelto? Questa volta abbiamo scelto una forma nuova, nel senso che la casa di produzione si è costituita anche come società di distribuzione e quindi ha fatto un lavoro autonomo di reperimento delle sale e usciamo in alcune città d'Italia con una formula per questo tipo di film ormai molto usata, cioè si esce da 1 a 3 giorni, se c'è pubblico si può estendere la programmazione e quindi invito tutti in tutti i casi ad andare a vederlo. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? Trovate tutte le informazioni su Kino Web e su Dugong. Il film documentario Il Palazzo al cinema da mercoledì 16 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento alla regista Federica Di Giacomo. A presto! Grazie a voi. Ciao Federico. Con Anna per presentare il documentario Finally Got the News di Stuart Bird, René Lichtman e Peter Gessner all'interno dell'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa a Roma al Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino giovedì 24 marzo 2022. Ben trovata! Grazie, ciao! Che racconto è questo? Finally Got the News è un film del 1970 che proporremo in versione sottotitolata in italiano, quindi è una ottima occasione per vederlo e comprenderlo bene. Ed è un film realizzato da alcuni registi del collettivo Newsreel, che era il collettivo statunitense che dal 68 ha realizzato molti film militanti, comunque vicini ai movimenti rivoluzionari statunitensi, insieme alla League of Revolutionary Black Workers, la Lega dei lavoratori neri rivoluzionari di Detroit, che è stato un movimento importante e anche sicuramente da noi in Italia poco conosciuto, di sintesi tra la lotta della Black Liberation, cioè la lotta di liberazione dei neri, con la lotta operaia. Il film è un documento importante perché non solo racconta delle lotte dei sindacalisti neri nelle fabbriche di automobili a Detroit, ma è proprio un film saggio, è un film che presenta l'analisi sullo sfruttamento che la Lega portava avanti in quel periodo ed è un film quindi molto denso e interessante. Com'era la situazione dei lavoratori neri all'interno delle fabbriche a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70? I lavoratori neri nelle fabbriche di auto di Detroit costituivano circa il 30% se non di più, ma erano completamente assenti nel sindacato che era totalmente bianco, lo United Auto Workers, e di solito facevano i lavori peggiori, i meno pagati, non erano rappresentati e subivano razzismo sia in fabbrica che all'interno del sindacato, e spesso i ragazzi ragazzi neri dei quartieri popolari venivano indirizzati a dei corsi di studio che li ponevano sempre a livelli più bassi, poi nel trovare lavoro e quindi avere delle paghe. E il film ricostruisce quindi la situazione dei lavoratori neri nelle scuole, la situazione specifica delle donne lavoratrici, delle donne operaie, ma anche il rapporto con gli operai bianchi. Nel 68 nella fabbrica Dodge viene creato il famoso Dodge Revolution Union Movement, DRAM, che è la base poi per la creazione della Lega, e gli operai neri cominciarono a fare delle azioni completamente autonome rispetto al sindacato bianco, quindi scioperi a gatto selvaggio, azioni di disturbo fino alla partecipazione nelle elezioni, ed è stato un percorso lungo e molto complesso. La sera del 24, per parlare proprio di questo, per avere qualcuno che ci racconti di questa situazione del passato, ma anche per ancorarla e legarla al presente, ci sarà Silvia Baraldini. E invece per parlare del film abbiamo invitato un professore dell'Università di Stoccolma che è un esperto di cinema militante e soprattutto di questo film, che ha avuto insomma una storia abbastanza lunga e di legame con l'Europa in quel periodo. Che forma distributiva ebbe all'epoca e anche che risonanza? Questo film, come altri precedenti del newsreel, ebbero una distribuzione europea e anche italiana, in quel circuito alternativo che legava i movimenti rivoluzionari e il cinema nel periodo tra la metà degli anni 60 e i primi anni 70. E quindi anche in Italia questo film venne distribuito dal Collettivo Cinema Militante di Torino, conosciuto come CCM di Torino, ma anche dalla Unitelefilm, cioè dalla casa di produzione legata al PC. Ebbe quindi una brevissima vita distributiva nei primissimi anni 70, per poi scomparire del tutto. Ne esiste una versione breve in Svezia, che è il punto di partenza della ricerca del professor Sandom, e la cosa interessante è che appunto questi film, per quanto indipendenti, fatti completamente in autonomia dai collettivi, avessero la possibilità di circuitare nei contesti di lotta nazionali dei diversi paesi. Ci sono spazi web per ulteriori informazioni rispetto al documentario? Ho trovato dei siti in cui si racconta un po' della vita della produzione, ma sono dei siti individuali di persone che hanno studiato, ma non c'è nulla di specifico, diciamo così. Si trova per esempio il sito della casa di distribuzione americana che distribuisce il film, che è una casa di distribuzione specializzata in materiali politici o sociali, che si chiama Icaro Film, però nulla di completo e di ampio, quindi vi invitiamo a venire al Forte Prenestino. Il documentario Finally Got the News del 1970 di Stuart Bird, René Lichtman e Peter Gessner, proiettato in lingua originale e sottotitolato in italiano all'interno dell'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, giovedì 24 marzo 2022. Anna, un abbraccio, un ringraziamento e a presto. Grazie a te e ciao, grazie. Con Luca Rossomando, autore del soggetto del documentario Lievito di Chop and Cuff al cinema da martedì 22 marzo 2022. Ben trovato. Salve, buongiorno. Ce ne parli? Lievito ha una struttura insomma incentrata sul presente, ma anche con alcuni inserti di immagini del passato. Il presente sono tre storie incrociate che si svolgono in una colonia estiva di un gruppo di ragazzi che vanno in Cilento, in una palestra su un dojo di judo, dove un gruppo di adolescenti impara non tanto a gareggiare ma a insegnare il judo ai bambini più piccoli. E poi c'è un laboratorio di teatro che è uno dei laboratori del progetto Arre Vuoto, che dura a Napoli da 15 anni, che si svolge in un museo di arte contemporanea, in particolare nel Madre. Queste tre storie si intrecciano tra loro un po' a cornice e anche un po' per sottolineare alcune questioni, dare uno spessore, una profondità nel tempo e nello spazio. Ci sono due storie, che sono quella di Peppe Carini, che è stato uno degli animatori della mensa Bambini Proletari, che era un luogo della Napoli degli anni 70, insomma su iniziativa di Lotta Continua nacque questo posto, che era sostanzialmente una mensa in un quartiere popolare a Montesanto a Napoli, che cominciò come mensa anche di bambini del quartiere e poi divenne anche insomma un centro di iniziative, quindi con un progetto politico più ampio. E poi c'è la storia di Bruno Leone, che è un maestro di quarattelle, e il suo rapporto con il suo maestro Nunzio Zampella, vecchio burattinaio quarattellaro attivo già dagli anni 50, e poi il suo rapporto con l'allieva Irene Vecchia, insomma, che è attiva adesso insieme anche a Bruno Leone. Questo da un lato, la storia della mensa dei bambini proletari, per sottolineare che il lavoro educativo può e deve essere lavoro politico, lo è stato nel passato recente della città e non ci sono motivi per cui non lo continui a essere, per quanto insomma le difficoltà siano evidenti, diciamo la spoliticizzazione del lavoro educativo sia abbastanza evidente oggi. E mentre la storia di Bruno Leone, insomma il rapporto col suo maestro, con la sua allieva, è un po' per richiamare valori più universali della trasmissione dei saperi, del passaggio di consegne da una generazione all'altra, diciamo un movimento più universale che sottende poi alle cose che si mostrano nel film, nel presente, insomma sostanzialmente al centro del film c'è il rapporto tra giovani e adulti, tra maestri e allievi, insomma è lo scambio che non è solo unilaterale, insomma non va solo in una direzione ma è anche insomma reciproco. Com'era partito il progetto di questo documentario? Chop e Cuff hanno firmato il loro primo film nel 2013, si chiamava Il Segreto, è un film che è stato girato in 15 giorni seguendo un gruppetto di ragazzini nei quartieri spagnoli che raccoglievano il legno per fare il fuoco di Sant'Antonio il 17 gennaio, insomma è stato un film che è stato premiato, ha girato molto, ma essendo noi estranei alle logiche produttive del cinema eccetera, questo secondo film ci sono voluti anni per farlo, insomma non c'era un'urgenza di produrre, certo sarebbe stato conveniente da un certo punto di vista perché quel film Il Segreto si era fatto notare insomma e magari c'erano possibilità produttive maggiori, però l'idea è quella di seguire un percorso che sia coerente anche col tipo di percorso artistico di Chop e Cuff, che è stato per molti anni quello di dipingere per strada, ma sempre legando insomma questo tipo di pratica artistica a una presenza sul campo, nei quartieri, in senso lato di intervento sociale, educativo. Per cui questo film insomma, è stato un modo un po' per riflettere sulle cose che si fanno da molto tempo e quindi è stato un po' un accumulare delle immagini senza fretta in contesti diversi. Tutti i contesti, a dire la verità, anche molto familiari, nel senso che abbiamo filmato quasi sempre persone, in luoghi, ambienti conosciuti, per cui è stato da un lato semplice perché siamo stati sempre accolti facilmente. E allo stesso tempo, insomma, poi quando è stato il momento di montare, di tirare un po' le fila, si è dovuto prendere un po' una distanza, cercare di dare una forma, uno stile, anche un senso compiuto a questi frammenti, quindi la lavorazione è durata anni, un po' alla volta, e poi a un certo punto insomma grazie alla produzione Parallelo 41 abbiamo vinto un bando della Film Commission regionale e quindi a quel punto insomma è stata anche un po' la molla per chiudere il film. Montaggio di Alessandra Carchedi e poi ci sono le musiche di Antonio Raia e Renato Fiorito, il mix audio di Massimo Mariani e la color correction di Simone Infante. Per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti web? Il sito di Chop e Cuff c'è il trailer, le foto, un po' di testi. Il film è stato a novembre al Festival di Torino, è stato proiettato lunedì scorso a Napoli e poi farà un giro a Genova, a Savona, Firenze e Pisa e continua a essere proiettato a Napoli dal 24 al 28 marzo al Cinema Modernissimo. Poi in aprile e maggio si organizzerà un altro giro al Centro Nord. Il documentario Lievito di Chop and Cuff al cinema da martedì 22 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Luca Rossomando, autore del soggetto. A presto! Arrivederci. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.